Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Il 7 giugno del 1965, Estelle Griswold, direttore esecutivo della Lega per la Maternità Consapevole, e il dottor Seeley Buxton stanno brindando con i propri collaboratori. Sono estremamente felici perché hanno appena vinto una causa contro lo Stato del Connecticut, trasformando il loro personale processo in una svolta storica per tutto il mondo. 4 anni prima, i due hanno fondato una piccola clinica privata per fornire alle donne sposate contraccettivi e altri metodi per il controllo delle nascite, contravvenendo a una obsoleta legge dello Stato che vieta di fornire simili materiali o anche solo consigli sull'argomento. Per questo i due vengono arrestati. Ma fortunatamente il giudice Earl Warren decide di dar loro ragione, ritenendo la legge in questione incostituzionale, in quanto viola il 14° emendamento e il diritto alla privacy. Nessuno Stato può eseguire o far rispettare una legge che tolga i privilegi o le immunità dei cittadini degli Stati Uniti. Né qualsiasi Stato privare qualsiasi persona della vita, della libertà o della proprietà senza un giusto processo di legge. Né negare a qualsiasi persona all'interno della sua giurisdizione l'eguale protezione delle leggi. Sembra impossibile che nel 1965 esista ancora una legge negli Stati Uniti che vieti anche solo di parlare di contraccezione e di maternità consapevole. Eppure è così. È una legge datata addirittura 1837 che va sotto il nome di Comstock Act, dal nome del suo ideatore. Anthony Comstock, direttore generale delle poste dello Stato nel Connecticut, nonché uomo politico dedito alla diffusione degli ideali di moralità vittoriana, fonda la Società per la Soppressione del Vizio, istituzione dedicata al controllo della moralità pubblica, e convince il Congresso a far passare come legge federale il suo atto. Sarà condannato ai lavori forzati in un penitenziario per non meno di 6 mesi e multato con un'ammenda di non meno di $100 chi venda o regali o mostri in alcun modo o pubblichi o possieda libri, scritti, pubblicità, pitture o disegni o altre pubblicazioni osceni o che detenga materiale atto a prevenire il concepimento o a favorire l'aborto. Per libri osceni, Anthony Comstock intende perfino quelli di anatomia, dove sono presenti le tavole che rappresentano il corpo umano nudo. Un bel problema per gli studenti di medicina, per i dottori, per gli ospedali. Questa legge assurda, che rimane in vigore per oltre un secolo, anche se nella maggior parte dei casi non viene più applicata, diventa la nemica numero uno di una donna, che lotta tutta la vita contro le sue regole inaccettabili e che, nonostante nel 1965 abbia ben 86 anni, si dichiara finalmente felice e appagata, grazie alla rivoluzionaria sentenza del processo Griswold-Buxton. Questa donna, ormai alla fine della sua vita, muore infatti l'anno dopo, nel 1966, ha un motivo molto valido per combattere con tutte le sue forze per la diffusione di una coscienza collettiva nei confronti della maternità, per dare alle donne la possibilità di scegliere, per fornire alle coppie metodi contraccettivi efficaci. Lei a soli 20 anni vede morire sua madre di tumore all'utero, stremata e debilitata da ben 18 gravidanze. Il suo nome è Margaret Higgins Sanger. Margaret Higgins Sanger. 11 fra fratelli e sorelle che circolano per casa non sono uno scherzo. C'è sempre qualcuno che piange, qualcuno che grida, qualcuno che è malato. E si sa, i più grandi devono accudire i più piccoli. Margaret Higgins è la sesta, proprio in mezzo. Ne ha 5 più grandi e 5 più piccoli, e non è una bella posizione. I più grandi la comandano, i più piccoli la fanno disperare. Mai un momento per sé e un forte senso di responsabilità che le impone di aiutare sua madre, che proprio non ce la fa. Gli Higgins sono cattolici devotissimi e praticanti, e per loro l'atto sessuale è finalizzato al concepimento. La madre, in 22 anni di matrimonio, porta avanti 18 gravidanze. 7 bambini muoiono nel parto per malattie nei primi mesi, ma 11 sopravvivono più che bene e rappresentano un impegno davvero molto oneroso. Niente di strano, in quel secondo cinquantennio del 1800 a Corning, nello stato di New York, dove risiedono gli Higgins, tutte le famiglie sono così. Nessuno ha meno di 10 figli e la cosa si ripete in tutti gli Stati Uniti. Le donne hanno un destino segnato. Sfornare figli a più non posso, invecchiando precocemente ed essendo relegate a quell'unico ed esclusivo ruolo. Ma per Margaret non è così. Lei la pensa diversamente sulle donne. Mentre osserva sua madre distrutta dalle continue gravidanze e affetta da un cancro all'utero che la porta in breve tempo alla morte, Margaret Higgins matura un fortissimo sentimento di ribellione. Non è giusto, sta pensando, che in tutto il mondo le donne vengano considerate delle semplici fattrici, votate a una riproduzione cieca e ottusa che le porta a una condizione di prostrazione fisica e morale, che nega loro ogni possibilità di svolgere un ruolo attivo nella società, ma anche semplicemente di poter decidere in maniera cosciente se avere o meno un figlio. Non parliamo poi dell'idea considerata peccaminosa e diabolica di avere rapporti che non siano finalizzati al concepimento. La morte di mia madre mi fece comprendere che era davvero necessario fare qualcosa per la condizione della donna. Significava cambiare il mondo? E va bene, avrei cambiato il mondo. Fece un ragionamento ritroso, molto semplice. Perché cambi il modo di considerare le donne, bisogna che esse abbiano un ruolo nella società, che possano dimostrare il loro valore. Per fare questo devono avere la libertà di studiare, andare all'università, impiegarsi nel mondo del lavoro. E questo non potranno mai farlo se hanno attaccati alle gonne 10 o 12 figli. Ci vuole un controllo sulle nascite. Margaret si convince che la sua azione possa essere efficace andando all'origine del problema. Ecco perché si diploma infermiera. Un'azione capillare rivolta alle donne che partoriscono, cercando di convincerle a limitare le proprie gravidanze, modificando una mentalità retrograda. Questo è quello che si impone fin da giovanissima. Nel frattempo si innamora dell'architetto William Sanger, che sposa nel 1902 e che si schiera al suo fianco in quella lotta che vedrà Margaret impegnata per tutta la vita. Essere infermiera nel Lower East Side, uno dei quartieri più poveri di New York, abitato da immigranti di ogni nazionalità, mette Margaret di fronte a realtà spesso drammatiche. Ignoranza e mancanza di mezzi diventano un mix mortale difficile da arginare. La giovane viene chiamata al capezzale di donne che si sono praticate l'aborto da sole o che si sono affidate a mammane senza scrupoli. Nei diari di Margaret è raccontato un episodio che lei definisce esemplare della realtà di quegli anni. Accompagnai un medico a casa di Sadie Sachs. Era in condizioni gravissime perché si era procurato un aborto da sola. Lei e il marito, che faceva il camionista, avevano già altri figli e non potevano mantenerne altri. La curai per diverse settimane e guarì. Quando tornò con me il medico per verificare la guarigione, gli chiesi di dire qualcosa alla donna, di aiutarla a non trovarsi più in quella situazione. Il medico le disse di praticare l'astinenza, un discorso semplicemente assurdo. Dopo 3 mesi, fummo chiamati nuovamente a casa dei Sex e io sapevo cosa avrei trovato, ma questa volta arrivamo tardi. Sadie si era procurata un altro aborto, ma la trovammo morta per una tremenda emorragia. Fu lì che presi la decisione definitiva. Margaret comprende che non è più sufficiente la sua azione singola, legata alla professione che svolge. È troppo limitato quello che può ottenere così. Ci vuole un'azione capillare, qualcosa che smuova le coscienze, ma anche che attiri l'attenzione dei media sul problema. Ecco perché decide di diventare suffragetta. Le suffragette sono un movimento di emancipazione femminile nato per ottenere il diritto di voto. Il loro nome deriva infatti dalla parola suffragio, che significa dichiarazione della propria volontà in procedimenti elettivi o deliberativi. Il termine acquista in seguito un significato più ampio, intendendo riferirsi a quelle donne che lottano o si adoperano per il riconoscimento pieno della propria dignità, coincidendo praticamente con il termine moderno di femminista. La prima richiesta formale di un riconoscimento dei diritti della donna risale addirittura alla Rivoluzione francese. Ma è in Inghilterra e soprattutto negli Stati Uniti che il movimento diviene una realtà a tutti gli effetti, anche se bisogna aspettare gli anni 20 perché le donne ottengano il suffragio universale. Ricordiamo che in Italia le donne votano per la prima volta molto più tardi, il 2 giugno 1946, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Quando intorno al 1910 Margaret Sanger entra nel movimento, la strada è ancora tutta da percorrere. Pensai che dovevo parlare alle donne, così scrissi un paio di articoli, uno rivolto alle madri e uno alle figlie. Cercavo di spiegare loro i rudimenti di quella coscienza che si rivelava essere fondamentale per l'emancipazione femminile. E poi davo anche dei consigli pratici. Quello che ogni madre dovrebbe sapere e quello che ogni fanciulla dovrebbe sapere vengono pubblicati sul quotidiano socialista New York Call. Si tratta di 2 articoli rivoluzionari che per la prima volta parlano dalle pagine di un giornale di contraccezione e di controllo delle nascite, dell'aborto e dei suoi pericoli. Argomenti vietati dalla legge, come sappiamo, da quel Comstock Act in vigore dal 1837, che impedisce di parlare di quel genere di cose ritenute offensive della morale. E lo stesso Anthony Comstock, uomo politico che ne è l'autore, a commentare gli articoli di Margaret. Quello che ogni madre e ogni fanciulla dovrebbe sapere? Niente di niente. Margaret Sanger lascia dunque la sua professione di infermiera. L'ha spinta a farlo quello che ha visto in anni di professione nei quartieri più poveri di New York, dove le donne sono afflitte da una condizione subordinata in tutto. Passano praticamente tutta la loro età fertile incinte e si procurano gli aborti clandestinamente perché non esiste nessun tipo di informazione sull'argomento. E lei stessa, molti anni dopo, quando è già molto anziana, a raccontare in una intervista al giornalista americano Mike Wallace quello che la spingeva all'azione. Era una soddisfazione incredibile poter fare qualcosa per alleviare le sofferenze, specialmente delle donne, e io ero una femminista. Vedevo la sofferenza di quelle poverette che dovevano portare avanti gravidanze non desiderate. Fu esaltante andare contro leggi arcaiche che nessuno fino a quel momento aveva provato a cambiare. Nessuno a quel tempo poteva fare niente che avesse a che fare con l'argomento, nemmeno i medici, perché era considerato un argomento osceno. Decisa a parlare a tutte le donne, a quante più possibile, Margaret si unisce alle suffragette. Si fa anche conoscere per alcuni articoli che scrive e il suo nome comincia a circolare tra le fila delle altre iscritte al movimento. Tra di esse vi è una giovane donna che si interessa moltissimo non appena viene a conoscenza dell'impegno a cui è votata Margaret. In realtà lei non ha proprio nulla a che vedere con le povere derelitte dell'East Side. Non è un'immigrata, non ha nemmeno figli. In realtà è una donna ricchissima. Eppure la sua attenzione è tutta rivolta ai più deboli e ha abbracciato la causa delle suffragette proprio perché vuole contribuire a cambiare la condizione subordinata delle donne. Il suo nome è Catherine Dexter McCormick. Catherine Dexter McCormick. Chicago, la città degli avvocati. E Wirt Dexter è sicuramente uno dei più in vista. La sua è una famiglia benestante e di larghe vedute. I figli vengono educati con le stesse regole, benché siano un maschio e una femmina. Diritti e doveri sono assegnati equamente, e non è un fatto così frequente verso la fine dell'Ottocento. È così che Catherine si forma il carattere che la accompagna tutta la vita e che fin da piccola la fa inorridire di fronte alle discriminazioni. Quando il padre muore improvvisamente per un infarto, la famiglia Dexter si sposta a Boston, e questo è un fatto determinante nella vita di Catherine. La ragazza è molto emancipata e sta parlando con sua madre. Ha deciso, andrà all'università. Il vicino Massachusetts Institute of Technology è un ateneo prestigioso, specialmente nelle materie scientifiche, quelle che interessano maggiormente Kate. E poco le importa se di donne praticamente non ce ne sono, lei ci va lo stesso. Anzi, quando nel 1904 si laurea, è la seconda donna ad aver raggiunto quel risultato dalla fondazione dell'università nel 1861, e addirittura la prima ad essersi laureata in scienze. Non è stato facile districarmi in un mondo di uomini. Ho dovuto essere più brava, studiare di più, lavorare più sodo, solo perché sono una donna. Ma questo non è giusto. Può un paese definirsi civile se esistono discriminazioni sulla base del sesso? È una cosa inaccettabile e a questo non potrò mai abituarmi. Catherine sta pensando di iscriversi addirittura a medicina. Sembra averci provato gusto a sfidare la società maschilista di inizio secolo. Ma poi accade un fatto che modifica radicalmente i suoi piani. A farle cambiare i progetti è Stanley McCormick. Erede di una delle famiglie più ricche in vista di Chicago, Stanley è figlio di quel Cyrus McCormick, fondatore della International Harvester Company, azienda produttrice di macchinari per l'agricoltura. La famiglia ha un patrimonio immenso, ma non è quello che interessa a Catherine. Anche lei è più che benestante, non cerca un marito ricco. Ma quando conosce Stanley, ne rimane letteralmente affascinata. Colto e abilissimo tennista, il giovane ha un carattere delicato, non è arrogante come gli altri rampolli delle famiglie ricche della città, è sensibile e condivide in pieno il modo di pensare anticonformista della giovane Dexter. C'era qualcosa in lui che mi colpì molto e che mi fece decidere di rinunciare ad una carriera in ambito scientifico. Con il passare del tempo capii che cosa mi aveva attirata, la sua malattia. Quel male oscuro che lo consumava dall'interno aveva conquistato la mia tendenza ad occuparmi degli altri, a prendere sotto la mia ala protettrice i più deboli. Dopo solo 2 anni di matrimonio, Stanley viene internato all'ospedale psichiatrico McLean di Belmont. con una diagnosi terribile, schizofrenia acuta e irreversibile, che si trasforma in pochi anni in demenza praecox. Dichiarato legalmente incapace nel 1909, viene posto sotto la tutela di Catherine, che improvvisamente si ritrova a gestire una fortuna immensa. Catherine ha solo 34 anni, è giovane, bella, colta, ha tutta la vita davanti. Potrebbe decidere di spassarsela, di fare la bella vita con quella fortuna che le è capitata all'improvviso. Ma il suo animo filantropico prevale sulle rosee prospettive di una vita di agi. Sta pensando proprio a questo mentre esce dall'ospedale dove ha fatto visita a Stanley. Ci deve essere una ragione a tutto quello che le è capitato. Vedere la sofferenza altrui la convince di avere una missione nella vita. Il patrimonio dei McCormick, che le è piovuto addosso inaspettato, deve servire a una giusta causa. Lei è una donna, ed è per le donne che ha intenzione di lottare da ora in poi. Come ricorda la dottoressa Sally Alexander della Goldsmith University di Londra, queste attiviste erano animate da uno spirito di grande innovazione. Volevano fare qualcosa, magari anche solo piccole azioni, ma trasformare l'opinione pubblica. Volevano influenzare la gente con dei fatti, non con delle parole. Ed è proprio in una delle riunioni del movimento delle suffragette che Catherine Dexter incontra per la prima volta Margaret Sanger. Le due donne si ritrovano a casa di Carrie Chapman Catt, leader del movimento che sta portando avanti una battaglia difficilissima, quella per la ratificazione del 19° emendamento, che sentenzia l'illegalità della discriminazione del potere di voto in base al sesso. È una battaglia dura, ma chi altri può riuscire in questa impresa quasi al limite del possibile se non le agguerrite suffragette? Nessun dio, nessun padrone. Il nostro scopo è stimolare le donne a pensare a se stesse e a costruirsi un carattere cosciente e lottatore. Il nostro giornale, La Donna Ribelle, lavorerà strenuamente perché si crei una coscienza femminile e le donne si affranchino attraverso l'indipendenza economica. È il marzo del 1914 e due giovani donne e due amiche stanno leggendo le prime frasi dell'articolo di apertura di The Woman Rebel, La Donna Ribelle, nuovo mensile da loro fondato e dedicato alle donne e alle problematiche che affliggono il mondo femminile. Le due amiche si guardano felici. È un importante passo avanti l'essere riuscite ad avere addirittura un loro giornale. Suffragette già da alcuni anni sono Margaret Sanger e Catherine Dexter. Ex infermiera votata alla causa delle donne, fermamente convinta della necessità che esse si affranchino attraverso una piena consapevolezza di se stesse, Margaret Sanger lotta perché si possa finalmente parlare di contraccezione e di controllo delle nascite, problematiche considerate oscene, addirittura fuori legge, punibili con i lavori forzati. Nelle fila del movimento statunitense delle suffragette, Margaret incontra Catherine Dexter, biologa nonché filantropa, donna ricchissima che ha sposato l'erede di una delle famiglie più in vista d'America, i McCormick. Quando suo marito Stanley, affetto da schizofrenia e demenza precoce, viene interdetto e posto sotto la sua tutela, la giovane donna si ritrova a gestire il suo immenso patrimonio e si vota definitivamente alla causa delle donne. Margaret e Catherine si conoscono a casa del leader del movimento, Carrie Chapman Catt, e da quel momento le loro strade proseguono parallele per tutta la vita. Fin da subito comprendono che i passi da fare sono parecchi. Margaret, dobbiamo fare in fretta. Per prima cosa credo che avere un proprio giornale di informazione sia utile. Poi dobbiamo creare un'associazione. Dobbiamo portare in giro per il mondo le nostre idee. Dobbiamo farci ascoltare. Margaret Sanger sta guardando la sua amica Catherine Dexter. È una donna forte, determinata. Ha destinato il suo patrimonio alla causa delle donne e questo permette loro di fare dei progetti che possono davvero cambiare le cose. Ma la giovane sa anche che tutto ciò può essere molto pericoloso. Sì, Catherine, hai ragione. Ma sai bene a quali rischi andiamo incontro, no? Lo sai che Comstock Act ci rende due delinquenti. Già in occasione dei miei due articoli alle madri e alle fanciulle, Anthony Comstock ha solo espresso il suo dissenso ottuso, ma io ho rischiato la prigione. Io non ho paura né di lui né di nessuno e vado avanti per la mia strada. Ma tu devi sapere cosa rischi. Margaret teme per Catherine. È una donna in vista, ha un cognome conosciuto. Le parole sesso, contraccezione, controllo delle nascite, aborto sono considerate oscene e chi ne fa uso, chi anche solo le pronuncia in un'occasione pubblica o le scrive su un organo di informazione, è punibile con i lavori forzati. Catherine però non sembra curarsene, anzi, più rumore si fa intorno all'argomento, meglio è. Ecco perché finanzia il giornale The Woman Rebel e spinge Margaret a impegnarsi nel suo progetto. La giovane le ha infatti confessato di voler scrivere un libro. Lo voglio intitolare Family Limitation. Sarà una diretta, aperta ed evidente violazione delle leggi di Comstock. Voglio parlare di metodi contraccettivi, di preservativo, di diaframma. Voglio realizzare illustrazioni che permettano anche alle giovani donne di capire, di imparare ed utilizzare questi strumenti anticoncezionali. Nessuna di loro ne sa un bel niente. Family Limitation vede la luce grazie al finanziamento di Catherine Dexter. Immediatamente requisito dalle forze dell'ordine, viene spiccato un mandato di cattura per Margaret Sanger. Mentre si trova nascosta in una sede sicura del movimento delle suffragette, Margaret sta parlando con Catherine. L'amica le ha organizzato una fuga all'estero e le sta spiegando nei particolari cosa l'attende. Margaret è riluttante, non le va proprio di scappare. No, se ti arrestano non potrai continuare la tua lotta. Andrai a Londra. Ecco i tuoi documenti falsi. Ti chiamerai Bertha Watson. Alcuni amici si prenderanno cura di te fin quando le acque non si sono calmate. Credimi, ho ragione io. Dammi retta. Margaret Sanger si ritrova a Londra, in fuga dagli Stati Uniti, per aver pubblicato il libro Family Limitation, considerato illegale in quanto parla apertamente di controllo delle nascite e contraccezione, argomenti considerati osceni e puniti dalla legge Comrock con la reclusione. La giovane, suffragetta e strenua attivista della causa per le donne, approfitta di questo viaggio forzato per conoscere, sia in Inghilterra che in Francia, nuovi metodi contraccettivi impiegati dalle donne europee, che sono decisamente più avanti rispetto a quelle americane. Mentre Margaret è all'estero, suo marito William Sanger regala una copia del libro Family Limitation a un giovane che si rivela essere un agente della polizia postale sotto copertura. La conseguenza del suo atto è deflagrante. William viene condannato a un mese di prigione, ma il suo arresto è uno scandalo. L'opinione pubblica, che apprende la notizia dalle pagine dei giornali avvisati in maniera massiccia da Catherine Dexter e dal movimento delle suffragette, si schiera con una tale compattezza a favore dell'architetto che in breve il governo si vede costretto a far cadere tutte le accuse nei confronti dei due coniugi. Margaret può tornare a casa. La lotta è appena cominciata. Il mio passo successivo, al quale ho pensato mentre ero in Europa, è quello di aprire una clinica privata per la pianificazione familiare e il controllo delle nascite, dove distribuire metodi contraccettivi e aiutare le donne. Al 46 di Amboy Street, nel quartiere di Brownsville, a Brooklyn, vede la luce la prima clinica degli Stati Uniti che si occupi di controllo delle nascite. È il 16 ottobre 1916 e per Margaret e Catherine è un giorno di festa. Le due donne hanno raggiunto un obiettivo comune e la loro felicità è alle stelle e contagia tutti gli ambienti a loro vicini. Non solo il movimento delle suffragette, ma associazioni delle famiglie, strutture mediche e perfino responsabili sanitari dell'esercito. La prima guerra mondiale, che impazza con la sua follia, non miete infatti solo vittime delle armi nemiche. L'assurdità della legge Comstock, che vieta il commercio di qualsiasi metodo contraccettivo, fa sì che i soldati americani al fronte siano gli unici a non essere dotati di preservativi. Questo li espone pericolosamente a numerose malattie veneree e diviene ben presto un problema dalle ripercussioni inimmaginabili. Ma nonostante questo, dopo soli 9 giorni dall'apertura della clinica, alcuni rappresentanti delle forze dell'ordine si presentano a casa di Margaret Sanger. In contravvenzione alle leggi dello Stato di New York, che vietano la diffusione e vendita di materiale atto al controllo delle nascite, si ordina l'arresto della signora Margaret Higgins Sanger, nonché la chiusura immediata con sigilli dello Stato della sua clinica. Condannata a 30 giorni di lavori forzati e a una forte ammenda pecuniaria, Margaret viene processata per direttissima. Mentre si trova in aula circondata dai suoi fedelissimi e dall'affetto dell'amica Catherine Dexter, Margaret sa molto bene cosa l'aspetta, ma è intenzionata a non mollare. Infatti la sentenza del giudice è scontata. Le donne non hanno alcun diritto di avere rapporti sessuali con un senso di sicurezza, in quanto dall'atto stesso non deriverà un concepimento. Questo è un fatto osceno che va contro le leggi dello Stato. La signora Margaret Sanger può chiedere la clemenza di questa corte se promette che non infrangerà più la legge. Onorevole giudice, gentili signori, mi è impossibile promettere una cosa del genere. Non posso rispettare la legge così come viene espressa oggi. Essa è iniqua e provoca morte e malattie, oltre a negare completamente il senso della sovranità assoluta che ciascuna persona ha il diritto di esercitare su se stessa e sul proprio corpo. Non intendo chiedere clemenza alla corte. Margaret finisce per un mese in prigione, un luogo dove nel corso della sua lunga carriera di attivista sarà detenuta per ben 8 volte. Mentre si trova rinchiusa, la sua amica di sempre, Catherine Dexter, pone le basi di uno storico ricorso in appello che vede le due donne ancora protagoniste insieme. Il loro operato ottiene dopo circa 2 anni un risultato insperato. Il giudice Frederick E. Crane della Corte di Appello di New York emette una sentenza che consente ai medici di prescrivere anticoncezionali. Si tratta di una vittoria schiacciante per le due amiche. Con la fine della Prima Guerra Mondiale, Catherine Dexter diviene vicepresidente della neonata Lega per il diritto al voto delle donne, mentre Margaret fonda la Lega Americana per il controllo delle nascite. Il suo statuto è molto semplice. Riteniamo che i bambini debbano 1. essere concepiti nell'amore. 2. Nascere da un desiderio cosciente della madre. 3. Essere allevati in condizioni tali da consentire un'eredità di salute mentale e fisica. Pertanto riteniamo che ogni donna debba detenere il potere e la libertà di prevenire il concepimento, se queste condizioni vengono a mancare. Ciascuna donna deve essere padrona assoluta del proprio corpo. Grazie alla sentenza del giudice Crane, Margaret può riaprire la sua clinica, dove un nutrito gruppo di dottoresse può finalmente prescrivere anticoncezionali e soprattutto dare assistenza alle donne. Con il suffragio universale concesso nel 1920, gli Stati Uniti sembrano modificare radicalmente il loro pensiero riguardo alla figura della donna nella società. Il Comstock Act rimane in vigore fino al 1965, ma nella maggior parte dei casi non viene più applicato. Margaret inizia una serie di lunghi viaggi che la portano in giro per il mondo e in particolare nei paesi asiatici, dove la situazione del controllo delle nascite è terribilmente grave e dove l'unico sistema conosciuto dalle donne è l'aborto, se non addirittura l'infanticidio. Ma l'amicizia e la collaborazione fra Margaret Sanger e Catherine Dexter è destinata a un altro grandissimo successo, che vede le due donne protagoniste negli anni 50. Tra poco, qui, a Destini Incrociati. Destini Incrociati vi sta oggi raccontando la storia di due donne incredibili, l'infermiera Margaret Sanger e la biologa e filantropa Catherine Dexter, che nel primo decennio del Novecento, dopo essersi incontrate nelle fila del movimento delle suffragette, iniziano insieme un percorso di vita dedicato alle donne e alla loro condizione nell'ambito della società. Le due giovani si scontrano a più riprese con la mentalità gretta e chiusa di quegli anni, che relega la donna al solo ruolo di madre e impedisce alle coppie di pianificare le gravidanze. In aperto conflitto in particolare con il Comstock Act, una legge in vigore dal 1837 che impedisce il commercio e perfino il semplice parlare di metodi contraccettivi, Margaret Sanger viene a più riprese imprigionata, ma nonostante questo riesce a fondare una clinica privata per fornire assistenza alle donne e grazie al sostegno economico dell'amica Catherine trasforma il suo sogno in realtà creando la Lega Americana per il controllo delle nascite. Grazie all'emancipazione e al suffragio universale, finalmente approvato nel 1920, la posizione della donna nella società americana si modifica gradualmente. Iniziano ad esserci più ragazze iscritte alle università e più donne lavoratrici, ma Margaret si rende conto che il percorso da fare è ancora lungo. Cambiare la mentalità è molto difficile. Sono le stesse donne alle volte che non accettano il cambiamento. Nei miei viaggi ho potuto constatare quanto le tradizioni siano radicate nella società. Il problema maggiore l'ho riscontrato nei paesi orientali. Margaret Sanger si trova in Cina. Ha potuto constatare con i suoi stessi occhi che le donne non conoscono alcun metodo contraccettivo e ancor più diffuso della pratica dell'aborto e l'orrore dell'infanticidio. Sconvolta, la donna sta pensando che è necessario agire su due fronti: modificare la mentalità lottando contro l'ignoranza e l'indifferenza e fornire un efficace sistema contraccettivo che rappresenti un valido sostituto a pratiche tanto disumane. Con l'aiuto della scrittrice statunitense Pearl Buck, che vive da anni in Cina e che nel suo libro La Buona Terra affronta proprio il tema della condizione femminile in Oriente, Margaret Sanger fonda a Shanghai la prima clinica per il controllo delle nascite del paese. Rientrata negli Stati Uniti, in collaborazione con la sua amica di sempre, Catherine Dexter, Margaret pone le basi per la creazione nel proprio paese di quello che è destinato a diventare il più vasto ente mondiale per il controllo delle nascite, presente oggi in 190 paesi, la Federazione Internazionale per la maternità pianificata, che promuove la salute sessuale e riproduttiva e si fonda sul diritto di ciascun individuo di poter fare le proprie scelte nel campo della pianificazione familiare. Nel 1951, mentre si trova a una cena della Federazione Americana per la maternità pianificata, Margaret Sanger incontra il biologo e ricercatore Gregory Pincus. Lo studioso, insieme al biologo della riproduzione Min Chue Chang, sta effettuando alcune ricerche su un farmaco a base di progesterone ed estrogeni che potrebbe inibire l'ovulazione. Ma ha seri problemi a proseguire nella ricerca perché non ha fondi sufficienti. Non appena Margaret sente pronunciare queste parole, ha un moto di sorpresa. È dai tempi della sua prima militanza nelle file del movimento delle suffragette che pensa a una pillola magica contro le gravidanze. La donna è al massimo dell'esaltazione e preannuncia al dottor Pincus che molto presto lo andrà a trovare con una sua amica. Catherine, ti devo assolutamente portare da Pincus. Le sue ricerche sulla pillola magica, come la chiamo io, sono ferme per mancanza di fondi. Ma tu mi hai sempre detto: dimmi cosa posso fare e lo farò. Ecco, ora sì che serve un finanziamento. Margaret e Catherine sono ora di fronte al professor Gregory Pincus. Il suo studio di ricerca a Shrewsbury, nel Massachusetts, è sede di una quantità incredibile di esperimenti che hanno lo scopo di testare l'efficacia di una corretta combinazione tra ormoni differenti, tesi a inibire l'ovulazione e quindi la possibilità di una gravidanza. Le due amiche si guardano intensamente. Forse questa può davvero definirsi la svolta epocale nella condizione della donna. Mentre il professor Pincus espone loro gli sviluppi degli studi e il percorso ancora da compiere, Margaret Sanger osserva l'amica Catherine Dexter. La donna ha deciso. Un'offerta di ben 2 milioni di dollari, all'incirca l'equivalente di 20 milioni di oggi, viene immediatamente destinata per il procedere degli esperimenti. Nel giro di breve tempo, la ricerca di Pincus e Chang arriva al suo compimento e nel 1960 la pillola anticoncezionale inizia ad essere commercializzata. La sua introduzione ha un grande impatto sociale. Ha un'efficacia altissima che dà alle donne il pieno controllo della propria fertilità. La sua efficacia e l'ampia diffusione sollevano presto un dibattito morale. Mai l'attività sessuale e la riproduzione sono state tanto lontane l'una dall'altra. In particolare la Chiesa Cattolica Romana prende una posizione rigida e nel 1968 Papa Paolo VI pubblica l'enciclica Umane Vite, secondo la quale la contraccezione artificiale distorcerebbe la natura e gli obiettivi dell'attività sessuale, che deve avere come scopo la procreazione, una posizione alla quale Margaret si oppone con tutta se stessa. È un'attitudine errata nei confronti dell'amore, del matrimonio, delle relazioni tra uomo e donna. Sono in disaccordo al 100%. Il sesso ha a che fare con l'amore, con l'attrazione. Nulla invece con l'allevare un figlio. Sono due cose distinte e non vanno confuse. Al di là delle polemiche, inevitabili visto l'argomento, resta il fatto indiscutibile che Margaret Sanger e Catherine Dexter siano due nomi che tutti oggi dovrebbero conoscere, perché senza di loro la vita delle donne e delle loro famiglie sarebbe molto diversa. La loro è stata la più influente rivoluzione sociale e culturale del secolo, i cui risvolti in campo medico, ma anche nella vita di tutti i giorni di milioni di donne, sono forse troppo vasti per essere analizzati nella loro interezza. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco.